No, cioè, il discorso è che arrivi a sera, che fai fatica a ritagliarti il tempo per studiare, devi cercartelo il fine settimana o quantomeno. Allora, io non nel mio percorso non sono mai riuscito a stare a lezione, però già stando a lezione riesco a capire molto di più rispetto a quando potevo. No, ma infatti sei riuscito a seguire, Io poi vedete seguo molto il testo. Cioè, a volte magari sarebbe interessante fare un volo pindarico su qualcosa, su un argomento, eccetera, però questo toglie tempo alla presentazione dei testi e secondo me per voi è più utile che stiamo bene sulle cose importanti del programma, perché poi è studio. Va bene, allora adesso vorrei introdurre il tema dei sottografi e questo è un tema importante perché se voi ricordate gli assunti fondamentali dell'analisi dei trendi, e uno di questi riguardava proprio l'individuazione dei gruppi. L'individuazione dei gruppi che non avviene mai ex ante rispetto all'analisi delle relazioni, cioè noi non raccontiamo le persone in base a caratteristiche che hanno loro personali prima di capire in che modo interagiscono, ma dobbiamo le raggruppiamo proprio perché interagiscono in un certo modo. Allora, perché è importante la definizione dei sottografi, questi sì ex ante, perché io devo prima identificare le caratteristiche formali, morfologiche che deve avere un certo tipo di sottografo e dopo, se le trovo dentro il gruppo che sto studiando, allora ho trovato un sottogruppo all'interno, un sottografo all'interno di questo gruppo, cioè dei soggetti che interagendo producono proprio quel tipo di configurazione strutturale lì. Allora, in generale, un sottografo è una porzione del grafo. Quindi se il grafo è composto da un insieme N di nodi e un insieme L di linee, il sottografo è un sottoinsieme di questo grafo, cioè sarà composto da un sottoinsieme dei nodi e da un sottoinsieme delle linee presenti nel grafo. È una porzione, un pezzo del grafo più generale. Un grafo GS è un sottografo di G se l'insieme dei nodi GS è un sottoinsieme dei nodi che costituiscono G e l'insieme delle linee in GS è un sottoinsieme delle linee presenti in G. Tradotto, è un pezzo del grafo, d'accordo? Scusate la rozzezza di questa mia traduzione. Allora, vediamo due tipi di sottografi, poi ne vedremo altri, probabilmente già domani, che sono piuttosto importanti e sono il componente e la clique. Che cos'è il componente? Il componente è il massimo sottografo connesso. Cioè, dentro questa porzione del grafo, tutti i nodi sono tra di loro raggiungibili. Posso cioè identificare un sentiero che mi permetta di passare da un nodo all'altro, sfruttando i legami tra di essi, senza dover mai, ecco, alzare la penna dal foglio. Per esempio, se il nostro grafo è questo qui che abbiamo fatto prima, vediamo che sia fatto così, sono questi N1, N2, N3, N4, dentro questo grafo, composto da 8 nodi, ci sono dei componenti, cioè delle porzioni di grafo, dei raggruppamenti tra nodi che sono tutti tra di loro connessi. Qual è? N1, N3, N4. N1, N3, N4 e basta, questo è un componente. Connesso vuol dire che esiste un sentiero che mi permette di andare da un nodo a all'altro. Non necessariamente una connessione diretta. Non devono essere connessi questi. Questi sono tutti connessi tra di loro, ma il grafo complessivamente è composto da questi 8 nodi. Quanti sono i componenti qua dentro? Questo è un componente, il componente è formato da N1, N2, N3, N4, poi ce n'è un altro. Ce ne sono tre, se no ce ne sono due. L'altro, ce n'è uno che è sbagliato per conto suo. N6. Intendiamo un grafo, quello un componente. Tutto questo è un grafo. Dentro questo grafo ci sono due sottografi che possiamo definire componenti. Cioè il primo è quello composto, l'abbiamo trovato, da N1, N2, N3 ed N4, che sono tutti tra di loro connessi. E il secondo? N7, N5, N8. N7, N5, N8. Questo è un altro componente. N7 può raggiungere N5, ma può raggiungere anche N8. D'accordo? N8 ed N5 sono tra di loro raggiungibili. Ma N3 ed N5 non sono raggiungibili. Non esiste nessun sentiero che permetta un'informazione, a una risorsa, a un suggerimento, a un pettegolezzo di passare da N3 ad N5, d'accordo? Quindi questo gruppo può essere espresso come l'unione di due componenti e un nodo isolato, che è N4. Ok? Quindi il nodo isolato quindi non intendiamo un sottografo singolo. No, il nodo isolato è un nodo, non può essere un sottografo. Ok? Ok, il sottografo per definizione è composto da nodi e linee che appartengono al grafo. Il nodo isolato non ha linee di connessione, d'accordo? La componente può essere importante. Capire se ci sono dei salti all'interno del nostro gruppo, cioè se ci sono delle zone che non comunicano tra loro, divise completamente, può essere molto importante. Ma in base a quello che studiamo, ancora più importante può essere trovare le click. Che cos'è la click? Della quale abbiamo iniziato a parlare con la figura morfologica pigliandoci il caffè poco fa. La click è il massimo sottografo non solo connesso, ma completo. Quando è che un grafo è completo? L'abbiamo visto prima. Quando tutti sono collegati tra di loro. Allora, dentro la click non solo i nodi devono essere raggiungibili, ma devono essere direttamente connessi tra loro, cioè tutti i legami potenzialmente attivabili tra loro devono essere stati attivati. La densità della click, se noi calcolassimo la densità soltanto della click, troveremmo sempre uno, cioè dentro quel pezzo di gruppo tutti i legami attivati sono stati, tutti i legami potenzialmente attivabili sono stati effettivamente attivati. C'è una click qua dentro. Qual è la click? N1, N3, N4. Siete bravissimi, bravissimi. Perché abbiamo... Immaginate quando entrerete nella gestione. Perché abbiamo un buon professore. Con i vostri test. La comunità, cioè, si può definire una click? Dipende da come interagiscono. Non si può definire una click. Perché se sono solo a interagire tra di loro? No, soltanto per far parte di una comunità. Bisogna vedere se dentro la comunità sicuramente ci saranno delle click, ma non tutti faranno parte della stessa. Però non è visto come una click all'interno di una comunità più ampia, perché in teoria... Dipende. Per esempio, poniamo che lei stia studiando, no? Lei pone particolare attenzione al tema della mediazione interculturale, no? Per formazione, poniamo, adesso io l'ho inquadrato così, siccome, purtroppo se lo porta dietro, ma è una cosa bella portarsi dietro, cioè studiare le differenze culturali vuol dire prendere proprio di petto la complessità. Allora, per esempio, se lei dovesse trovare dentro un gruppo che sta studiando, l'ampio, multiculturale, che due tipi di sottoculture hanno favorito la formazione di click, allora può dire che dentro quel gruppo di persone l'appartenenza culturale in qualche modo fonda la scarsa integrazione sociale, ma lo deve trovare, perché una click unisce chi fa parte della click, ma divide rispetto a chi sta fuori rispetto alla click. Voi siete una click, no? Però adesso io non so perché stavate sorridendo poco fa, però una cosa che io ho detto sin dall'inizio è questa: avendo voi dovuto scegliere questo corso, e a me non era mai capitato di avere degli studenti che che avessero scelto di fare il mio corso, perché ho sempre avuto corsi fondamentali, forse intimamente ho sempre pensato che nessuno avrebbe mai scelto di fare questo, potendone fare altro, no? Perché si tratta di materie tecniche e i corsi di laurea in genere, nei quali c'è sociologia, non hanno, come dire, delle, se non in alcune grandi eccezioni, no? Dei contenuti che sono molto tecnici. Questi sono un po' tecnici. Allora ho notato che avete delle particolari, una particolare propensione all'analisi delle relazioni sociali, e questo sta emergendo anche dagli esempi che fate, dal modo in cui, e devo dire che è molto particolare per me, e sono sicuro che userete queste cose nell'analisi di quello che farete. Se non lo userete non me lo dite mai, però adesso le diciamo perché prima è stata diciamo lo stesso, così. Lei non lo vorrebbe dire, secondo me. però c'è, secondo me c'è un vizio logico in questo, perché il nodo singolo non esiste a prescindere dalla click. Quindi il nodo è singolarmente quello che è perché fa parte della click. Noi questa è l'impostazione strutturale. Lei deve pensare che noi la click l'abbiamo fatta il primo giorno, perché ci siamo fatti un gruppo su WhatsApp e ci riscambiamo un po'. Ma siete, diciamo, voi su WhatsApp tutti, tutto, tutti gli studenti. Ci scambiamo questo, okay. Quell'altro, in conseguenza da subito, e nonostante questo ognuno vede quello che scrive l'altro. Ad esempio c'è lui che ogni settimana ci fa il prospetto delle aule dove dobbiamo andare. Ma questa non è una click. Però si può interconnessi con l'altro. Sì, ma non è la click. Allora, troviamo le quality. Allora, quanti componenti ci sono qua? Questo è l'esempio che avete nel testo, Componenti? Risponda lei, che prima ha avuto... Componenti... Quante sono qua? Devono essere tra di loro connessi, non direttamente, devono essere raggiungibili. Due. Questa e poi ci sono le sue. Quante sono le click? Due. Zero. Ecco. Zero. Il broker ha detto zero. Se il broker ha detto zero, io sarei potuto a dire zero. Una click c'è perché è uguale a quelle due sempre lì. Sono sicuro che è uguale identica. E anche con i numeri. Nella click, allora, attenzione, questo è un gruppo. Ci sono delle porzioni di grafo in cui tutti i nodi sono direttamente connessi tra di loro? Sì. Come no? Sì. N1, N2, N3, ma anche N7, N8, N6. N1 è connesso con N2, sì. Con N3. Ma non c'è densità uguale a 1. La densità? Se noi pigliassimo la densità, se noi ci mette in crisi qualcuno. No, devo dire che la posizione sta mettendo in crisi anche me adesso. Io stesso sono portato. Attenzione. Se noi calcolassimo la densità solo di questo pezzo di gruppo, cioè della porzione di gruppo e dei legami tra di loro, che riguarda N6, N9, N8 e N7, troveremo uno. Perché tutti i legami potenzialmente attivabili tra questi quattro sono stati attivati. Ok? Quindi questa è una click. Ok, è una click, cioè una porzione, tutto il gruppo non ha densità 1, non si avvicina neanche, ha ragione lei, però questo pezzo è sicuramente una click, come pure una click i tre del triangolo. Ma io avevo una domanda, cioè a dire due, perché io ne vedo tre di click in realtà. Qual è? Perché sarebbero N6, N8 e N9, ma possiamo anche dividere N6, N8 e N7. Sono più di tre, allora, sì. È una... 2 e 3 3 e 4 5 6 sì, tecnicamente quando, questo ve lo dico perché poi lo dovete fare quando usate il programma, si dà una quantità minima di nodi che devono formare una click, il default è 3, ok, quindi se voi lasciate 3 quindi trovate effettivamente più di 2, perché trovate anche tutte le combinazioni che ci sono tra queste, però dal punto di vista concettuale non significa nulla, d'accordo? Cioè dal punto di vista concettuale la click è questa. No, è che prendendo l'esempio della punta che ti sposti senza fermarsi, cioè lì puoi considerare anche una, però. Poi del componente, sì. Del componente fa parte pure le 10. Di questo componente fa parte anche le 10. Però se lei dice, questo io almeno ho capito, sì, sì. Che questa click ed è corretto dal punto di vista tecnico, non, è solo, non esiste solo in sé, ma esiste oltre a questa clic composta da quattro nodi anche una clic composta da N6, N7, N8 e un'altra. Dal punto di vista tecnico è vero, ma dal punto di vista concettuale questa informazione non dà nessuna aggiunta a quello di cui ci, perché a noi interessa che siano in quattro a far parte della clic, che in effetti gioca come clic a 4, non a 3. Sì. D'accordo? Domanda, dica, se io non avessi collegamenti dentro il rombo interno, avessi rombo sarebbe più questo, esatto, sì. Ok, tiriamo via le due, il collegamento tra N9 ed N7, tra N8 e N6, non sarebbe più qui. Tra N9 e N7, sparisce questo, esatto, sparisce l'altro, ok, e poi sparisce anche quale? Sparisce anche N8 e N6, quindi c'è solamente la parte esterna della figura geometrica. Sì, non sarebbe a questo punto qui quella lì. No, non perché, non, perché, perché N6 e N8 non saranno mai connessi, neanche N9 e N7. No, no, resta un componente. Ok, quindi, però N10, ma non è una clic. Benissimo, non so perché su questo. Sì. Giusto. Ok, quando stavo preparando queste slide, in particolare, ho pensato a mia figlia, mi ha detto, papà, quando la smetti di disegnare gli aquiloni? Adesso mi è venuto in mente, mi ha detto il rombo su quella parte lì. Effettivamente. No, io ero. Per capire. No, non è più una click, non è più una click, dirò di più, sotto se lei elimina questi due legami, ma nasce il legame tra N10 e N6, sì, sparisce questa click, ma se ne crea un'altra, una click che tiene dentro chi? N6, N9 e N10. Perfetto, quella è un'altra click. Tutto chiaro? In mezzo non ci fosse più un legame tra. Avete già un approccio di modifica rispetto alle reti? Sì, tra N6 e N8. Sì. Potrebbero leggere lo stesso se non ci fosse due click separate, nel senso. Esatto, ottimo, certo. Se non ci fosse più questo legame, teniamo che non ci fosse più questo, resterebbe una click tra N7 e N9 e N8, e un'altra click tra N6 e N7 ed è in questo caso vanno prese in considerazione separatamente perché sono due cose diverse anche rispetto ai soggetti che coinvolgono. D'accordo? Tutto chiaro sulla parte che riguarda questi primi tipi di sottogruppi? Ok. Vediamo adesso le separazioni tra porzioni di grafi. Innanzitutto i grafi bipartiti. I grafi bipartiti possono essere interessanti se voi avete la necessità di occuparvi soltanto dei legami tra due insiemi diversi di persone o di soggetti. Per esempio vi interessano solo i legami tra i maschi e le femmine, non tra i maschi e tra le femmine, ok? Vi interessano i legami solo tra italiani e non italiani, ma non tra italiani e tra non italiani, ma solo tra soggetti, diciamo, che appartengono a due categorie diverse per qualche ragione di approfondimento, no? A me è capitato per una ricerca sulle classi scolastiche di avere una parte che teneva in considerazione tutti i legami, poi ho fatto una parte tra italiani e non italiani, specifica, dove ho messo una parte di una e una parte di altra per vedere quali erano i legami tra di essi. Bene, i grafi bipartiti sono grafi all'interno dei quali è possibile individuare due sottoinsiemi di nodi tali che ogni legame è costituito da un nodo che appartiene al primo sottoinsieme e da un nodo che appartiene al secondo sottoinsieme. Vedete qui ho tracciato questa linea di che sarebbero poi gli adattamenti, ho segnalato qua di divisione per far proprio vedere questa configurazione può emergere dall'analisi delle reti oppure noi possiamo essere interessati ad approfondire l'analisi dei grafi bipartiti a costruirli se per ragioni teoriche vogliamo approfondire il legame tra soggetti che appartengono a diciamo insiemi, a sottoinsiemi diversi tra loro. Ok? Bene, adesso arriviamo a due concetti molto importanti, attenzione, questi sono molto importanti, soprattutto per le cose che ci riguardano nell'ambito di questo corso. Allora, il primo concetto è il concetto di punto di separazione. Che cos'è un punto di separazione? Allora, ricordate il componente, il punto di separazione è un nodo appartenente ad un componente la cui eliminazione comporta la separazione del componente in almeno due componenti distinti. Facciamo un esempio. Insomma, l'eliminazione del nodo? Sì. Ok. Tranne N4 che è un nodo isolato, ma non è un altro componente. Ah. Allora, voi mettete in fila i vostri nodi, sapete qual è il grado di ciascun nodo, il grado è il numero di linee incidenti con il nodo, nel grafo semplice è la quantità di legami che ha, ok? E trovate che alcuni nodi hanno 3 legami, altri ne hanno 2, altri ne hanno 1 e un nodo non ne ha nessuno, ok? Dopodiché, uno di questi soggetti venite a sapere che uno di questi soggetti è stato trasferito in un altro servizio, ok? E voi dovete gestire, poi parliamo che sia un servizio di coabitazione che prevede la convivenza tra queste persone. E a questo punto chi non ha un approccio strutturale dice vabbè, uno in meno, vediamo, l'uno varrà l'altro sostanzialmente. Ma secondo voi, dopodiché dice ma il soggetto che abbiamo trasferito, siccome chi lavora con voi sa che avete questa attenzione, vi vuole punzecchiare, dice aveva 2 legami complessivamente, già questo vi manda in allarme. Domanda per voi, se il soggetto trasferito N8 ha un'incidenza sul gruppo uguale che ha 2 legami, uguale al trasferimento di N5, entrambi hanno 2 legami, se noi calcoliamo l'incidenza sulla densità è uguale. Non cambia la coesione sociale, perché abbiamo 2 legami in meno da una parte e 2 legami in meno dall'altra. Ma come incide l'eliminazione di N8 rispetto all'eliminazione di N5? Perché N8 viene eliminato il singolo, diciamo, componente. Sparisce N8 e i suoi legami. Invece se elimino N6, elimino, creo due sottogruppi. Se eliminate N5, scusi. Sì, ma avevo capito. Un grafo che era connesso diventa disconnesso. Allora, questo è molto importante perché ci fa capire come sia importantissimo trovare il cut point dentro le reti che abbiamo di fronte, perché non tutti i nodi sono uguali, ma non solo rispetto alla quantità di legami che hanno, perché un nodo può avere tantissimi legami ma non essere un cut point, cioè se sparisce dal gruppo può avere un'incidenza complessiva sulla struttura del gruppo che non è paragonabile magari a quella di un soggetto che ha soltanto 2 legami e che però invece grazie a quei 2 legami tiene unite, comunicabili, raggiungono 2 porzioni del gruppo che altrimenti sarebbero completamente separate. Allora il cut point è un punto di separazione. Se sparisce il cut point il gruppo si divide in 2 componenti, cioè si disconnette. Se vuole le faccio un esempio di protezione civile. Dica. Allora, noi abbiamo... Si ricordi sempre che qua, No, noi abbiamo il caso in cui ci sono che creiamo in un comune delle strutture operative che si chiamano COC. Più COC vanno a essere interfacciati da un COM. Più COM si interfacciano con un CORE, che è una operativa regionale, e si interfacciano con la DICOMAT, che è quella nazionale. Se io elimino il CORE, i COM non potranno comunicare direttamente con la DICOMAT. Certo, ogni struttura è una struttura piramidale, è una struttura che però che mi permette anche cosa? Che il CORE ha dei collegamenti con delle strutture sue che non possono avere i singoli componenti più piccoli, quindi se comunico col CORE di conseguenza posso comunicare anche non so, con i militari, con altre sì. Del fuoco e così via, e addirittura se comunico magari con la prefettura posso comunicare magari con le forze dell'ordine, ma se non mi creo il legame direttamente io non posso come sala operativa piccola comunicare direttamente con una struttura che ha dei legami diversi dalla mia. No, però si tratta di strutture che sono state create a tavolino. No? Sì, sì, ma io se io faccio una norma che dice apro con livello intermedio e prevedo la comunicazione. Noi quando spieghiamo per anche i sindaci che l'abbiamo fatto a pensare a questa cosa, spieghiamo proprio questo tipo di situazione. Comunque, ecco, questo è un buon esempio. Anche se comunque è un esempio ingegneristico, perché è costruita, è una struttura burocratica costruita, diciamo così, per prevedere un collegamento. Però l'aspetto interessante è come dire, trovare queste situazioni dove noi non sappiamo nulla, certo. che però hanno delle incidenze a livello strutturale importanti. Per esempio, un'altra cosa molto importante è il ponte. La rimozione di un nodo può disconnettere un grafo, ma anche la rimozione di una linea, cioè il fatto che due soggetti che prima erano amici diventino nemici o si rompa un certo tipo di legame, ha un'influenza sulla connettività che può essere più o meno forte complessivamente. Cioè, torniamo al nostro esempio, se litigano le 8 e le 9, per carità, ci dispiace tanto per loro, no? Non collaborano più assieme, abbiamo un legame in meno, ma la rete assorbisce questo colpo, diciamo assorbe questo colpo in maniera strutturale e non ha, come dire, delle grandi, cioè, almeno ci possiamo aspettare che non abbia delle grandi che non esenta delle grandi ripercussioni. Ma se invece della lite tra N8 ed N9 dovessimo trovare che si è rotto il legame tra N3 e N5, in che modo reagisce qua la rete? Si separa. Cioè la rete consente di rispondere. Quando io dico assorbi, che la rete è capace di assorbire un trauma relazionale, vuol dire che non ne risente. Qua ce lo spiega lei, no? Quando una struttura tiene bene ad una scossa, assorbe bene la scossa, cosa è? Vuol dire che si modifica poco. No? Ne risente, cioè nel senso che non si danneggia troppo, no? Scarica bene la tensione. Ecco, qui abbiamo un legame che viene a mancare e anche qua un legame che viene a mancare, ma come reagisce la rete a livello strutturale? Si disconnette. Allora, perché questa cosa è interessante per noi? Perché se dovessimo trovare questa situazione, la prima cosa da fare, certo, investire nei legami tra tutti i soggetti, però è più strategico far nascere questo legame o far nascere questo legame qua? Se io fossi l'operatore farei di tutto innanzitutto per fare in modo che questi, oppure questi, o questi, insomma, però questo soggetto qua è un soggetto importante, cioè cercherei di collegare tra di loro delle situazioni. Beh, in realtà in questo caso sarebbe sufficiente connettere uno qualsiasi tipo di soggetto, cioè cercare un ponte tra questa porzione della rete e quest'altra. Ex post invece, trovata questa situazione, farei molta attenzione soprattutto a questo legame perché non si rompa. Se dovessi trovare questa situazione, farei di tutto perché questi due in qualche modo continuassero a lavorare insieme, cioè farei in modo stavamo dicendo, essendo una maglia radio della rete di emergenza, che se io mi separo la maglia radio, si danneggia un ponte, magari non posso più comunicare tra loro perché quel ponte mi fungeva da collegamento di operatori diversi. Cioè, se voi trovate una situazione del genere, conviene o no far coltivare i legami tra questi due? Perché? Per fare coltivare il legame anche tra un altro o no? No, questo senz'altro. Non la toglie, però questo è. Sì, comunque il legame tra un nodo. Cioè, quello che voglio dire è che quest'area qui è un'area rossa, un'area critica del network. Perché fin tanto che esiste questa, è anche più probabile che nascano altri legami tra queste due porzioni. Ma questa va tutelata. Questi due legami qua vanno, questo legame in maniera particolare, se lo trovate, va tutelato. Perché se si spezza questo e non avete creato un altro legame, allora per quanto riguarda la prospettiva, certo, io farei di tutto per tenere acceso vivo quel legame, però nel frattempo lavorerei anche dietro le quinte per crearne altro. Allora non si potesse, ne so io, 3500 motivi, sì. O non si riuscisse a tutelarlo, sì. Per forza devi creare un altro tipo di Certo, certo. E soprattutto sappiamo tra quali soggetti è più opportuno crearlo. Cioè, magari non tra questi, no, bene, però soprattutto tra uno che fa parte di una, cioè, che fa parte di questo pezzo della rete, è un soggetto naturalmente con un ordine d'attenzione. Cioè nel momento in cui non riuscissi più a fare un collegamento tra N3 ed N2, mi sembra, sì, io dovrei cercare di fare il collegamento tra N4 ed N2. Esatto. Però ecco la cosa. Un altro di quella rete d'acqua è questo. La cosa interessante che mi pare sia emersa è che se io queste cose le so, riesco a produrre un ragionamento strutturale. Se non conosco la situazione della struttura delle relazioni, opero a casaccio. Cioè, io faccio sempre questo esempio quando ho a che fare con gli educatori, perché i servizi educativi, non sono gli unici, ma i servizi educativi purtroppo lavorano con una quantità di risorse che molto spesso non è perfettamente adeguata rispetto alla grande responsabilità e al grande... Non sono gli unici servizi, immagino che anche altrove, però... Quindi lì dedicare delle energie per il rafforzamento della rete in maniera mirata significa ottenere il massimo con le risorse di tempo disponibili, d'accordo? E quindi è un approccio un po' manageriale nell'analisi delle relazioni, però... No, a me viene in mente, per esempio, che lo devi trovare, perché quando hai delle emergenze che fai il cambio di un'idea di squadra, che va via la squadra che ha lavorato magari quella settimana, ne arriva una esattamente nuova. Quindi se non gli passi chi è o quali sono... Le dice rispetto al contesto, dargli una mappa delle relazioni, così che... Perché non esiste niente di tutto questo? Non c'era proprio in questo... Non in questo... C'era un modo un po' più profano. Esatto. Guardate che non sarebbe difficile. Essere interessante, nel senso che... che arrivano prima rispetto alla turnazione, no? Per cui cambiano tutti gli operatori nei turni. Problema è chi gestisce. Tenete presente che bastano un paio di test sociometrici per il full network per tenere aggiornata la situazione. Cioè, quello che voglio dire è che avere delle informazioni di questo tipo non richiede una ricerca di 2 mesi. No. Bastano 2 domande, d'accordo? Fatte oggi, magari monitorate nel corso del tempo. Ecco, questo è l'esempio che trovate nel nostro manuale. Anche il genere del prete, della maestra o del dottore, ecco, no? È responsabile dei nomi. Quanti clienti ci sono qua dentro, secondo voi? Una. Due. Quanti clienti ci sono qua dentro? Una. Questa è esattamente la situazione che prima lei ha evocato, eh? Due. Sono due, vedete? Questa è quella, triangolo. E quest'altro là. Ok. Ci sono dei cut point? Un cut point, questo non è un cut point, perché se si elimina N3 questi 2 nodi diventano isolati, non abbiamo un altro componente. E poi c'è un ponte, naturalmente il ponte è legato tra N3 ed N1. Okay? Bene, veniamo al grafo diretto. Dopo torniamo sul sottografo perché vedremo le click N, i nuclei, i plessi, qualche altro tipo di sottografo. Io diciamo ve ne farò vedere alcuni perché possono rispondere, siccome sono diversi dal punto di vista teorico, noi immaginiamo come debba essere un sottografo, poi lo cerchiamo, se la realtà si configura strutturalmente in quel modo allora l'abbiamo trovato, però il significato che è sottografo è di carattere teorico, quindi ve ne presenterò qualcuno perché possono essere diverse le esigenze che avete voi nell'utilizzarli, quindi magari la click, per esempio in un gruppo molto coeso, molto connesso, è inutile cercare le click come quella che abbiamo visto, perché quasi tutti i soggetti saranno collegati da qualche click e un soggetto sarà multi-clicker, cioè apparterrà più click diverse. Allora in quel caso, quando c'è molta ridondanza, non servono le click. Ci sono altri tipi di sottogruppi un po' meno pretenziosi rispetto alle click che però potrebbero essere utili, ma poi li vedremo. Il grafo diretto tiene conto, oppure se il gruppo è molto lasco, molto debole, lì non ne trovate le click, d'accordo? Allora bisogna cercare dei gruppi che prevedano una connessione meno stretta rispetto alle click e che però sono comunque dei sottogruppi e quindi vanno presi in considerazione. Il grafo diretto tiene conto anche del verso del legame, una linea orientata disegnata come una freccia e viene definita arco. Vedete, il grafo diretto si esprime sempre con la G, ma in pedice c'è la D, directed, N, L, nodi e linee, è formato da un insieme di nodi e da un insieme di archi, cioè di linee orientate. Sta facendo degli archi, allora io dico linee orientate. Archi li trovate sia come sinonimo di legami orientati che come sinonimo di legami. Potete trovarli in altri testi, in altre cose, eccetera. L'unica cosa da capire è che abbiamo a che fare con questo. I nodi sono collegati da, e quindi tutta una serie di legami che si possono studiare solo in questo modo, il legame amicale, il passaggio di risorse, eccetera, che devono prevedere la direzione del legame. Ecco, vediamo come cambiano alcuni dei concetti presentati finora. Il primo concetto che cambia è il concetto di... ecco, questa è la rappresentazione della linea. Ciascun arco è definito come una coppia ordinata di nodi, LK, NJ, eccetera. Ecco, in questo caso la prima cosa che cambia è che non è più trascurabile la direzione con la quale noi ci esprimiamo rispetto all'ordine che identifica la linea. Ricordate, prima abbiamo scritto LK, NI, NJ, uguale NJ, NI. Riuscite a vedere? No. Presentato questa equivalenza, d'accordo? Questa equivalenza qui dentro, impegnata nella testa come ho fatto io per leggerla, non vale più, d'accordo? Per quale motivo non vale? Perché se esiste un legame da N1 verso N2, non è assolutamente detto che esista anche il contrario, che esista anche il reciproco. Lo dobbiamo trovare. Allora veniamo ad una cosa che la vostra collega aveva intuito prima quando guardavamo la formula per la quantità massima dei legami. Max A, la quantità massima degli archi, cioè dei legami orientati, dentro un grafo diretto sarà uguale a G, numero dei nodi, per G-1, senza dividere per 2, perché tra due nodi potremmo avere effettivamente due legami. Cioè, se noi lo consideriamo la quantità massima a partire da N1, allora li considereremo in uscita. E se considero questo, non considero automaticamente anche l'arco, che invece considererò a partire da N2 e così via rispetto a tutti gli altri nodi, in questo caso sono 3. Quindi se G è uguale a 3, come in questo caso, a quanto è uguale la quantità massima di archi, cioè di legami orientati, a G per G-1, o se preferite G-1, cioè i due legami che può avere un nodo, per 3, cioè 6. Ok? Quindi, questo che cosa vuol dire? Che per avere un certo tipo di coesione sociale rispetto ai legami orientati, che in genere hanno a che fare con l'espressività, cioè sono i legami di elezione, quelli più profondi, lo sforzo che bisogna fare in termini di impegno per la crescita della coesione sociale è doppio rispetto a quello che si fa per i legami che sono reciproci. E questa non è soltanto una caratteristica di carattere tecnico, ma è una caratteristica di tipo teorico. Cioè, creare dei legami di elezione significa fare un lavoro che non è comparabile al lavoro che facciamo per prevedere che dei soggetti si frequentino o che si conoscano. È molto più semplice questa seconda cosa rispetto alla prima. Per avere una densità, quindi diciamo, se qui sono due soggetti ad essere collegati, come nel caso precedente, ma il legame è un legame diretto e le scelte non sono reciprocate, voi avrete una densità che è la metà rispetto a quella che avreste trovato nei legami di semplice conoscenza. Se voi gli chiedete di conoscere, vi dicono sì, ma se poi gli chiedete lo consideri un amico, e uno vi dice sì e l'altro vi dice no, la densità che alla fine potete calcolare è più bassa. In effetti la formula della densità è esattamente quella che abbiamo considerato per i grafi semplici. L'unica cosa che cambia è il modo in cui determiniamo la quantità massima dei legami. Il fatto che manchi quel 2 all'operatore, come operatore non ci fa stare tranquilli, cioè ci mette, quindi pensate ad un gruppo che è coeso socialmente, cioè che funziona, se è coeso socialmente rispetto ai legami espressivi, che raddoppia come quantità dei soggetti. Pensate che impatto questo ha sul lavoro che deve fare chi opera con quel gruppo dal punto di vista della, diciamo, riorganizzazione della struttura comunitaria del gruppo. È un lavoro molto importante e soprattutto richiede, è bene che si sappia che tipo di situazione, se dopo si usano queste, dopodiché uno può fare finta che queste cose non esistano e quindi si basa sulla percezione che ha, ma io li vedo bene, mi pare che lavorino bene, c'è un clima collaborativo, no, in realtà poi ecco, decidiamo di non vedere, no, il modo in cui questi soggetti interagiscono tra di loro. Quindi cambia il concetto di densità e cambia il concetto di grado. Che cos'era il grado? Vi ricordate il grado? Che cos'era? Il grado di un nodo? Il numero dei legami. Il numero delle linee incidenti con il nodo, in questo caso cioè dei legami che ha, perché c'è solo un possibile legame da considerare. Bene. Nel grafo semplice il grado è 1. D'accordo? Cioè non che sia sempre uguale a 1, ma un soggetto ha un grado. Il grado in questo grafo semplice di N1 è 2. In un grafo diretto grado che ha un nodo potrà essere un grado in uscita, cioè di linee incidenti con il nodo che sono in uscita dal nodo, oppure in entrata. Ok? La quantità di linee incidenti con il nodo che partono dal nodo, grado in uscita, out degree di NI del nodo, cioè il numero degli atti che hanno origine da qualsiasi nodo, oppure il grado in entrata, in degree, il numero degli atti che convergono su qualsiasi nodo. Quindi, mutatis mutandis, di di N1 è uguale a 4. 2 in andata, 2 in entrata. Il grado di entrata di N1. Ah, in entrata, questo è 2. Sì. È 1. Ma io intendevo il massimo. Il massimo però può essere 2, o in entrata in uscita, ma può sempre essere 2. Può essere 2 in entrata o 2 in uscita. Cioè, in un grafo composto da 3 nodi, un grafo diretto, ogni nodo può avere un grado in uscita pari a 3-1 o un grado di entrata dagli altri 1, cioè può scegliere gli altri 2 e essere scelto dagli altri 2, ok? Allora il grado di entrata abbiamo detto che è 1, il grado di uscita me l'avete già detto, chiedo scusa, a quanto è uguale? A 2, ok? 1 e 2, e il grado di entrata è 1. Ma che è bello fare lezione con voi, perché andiamo avanti, capisci? Bene, ok. Ultima cosa, e poi ci fermiamo, l'esempio che trovate nel testo, molto semplice, senza guardare qua, il grado di entrata di Davide quanto è? Quanto è uguale? A 4. E il grado di uscita di Davide quanto è uguale? A 1. Allora, che differenza c'è concettualmente tra grado di entrata e grado di uscita, se voi lo usate? Il nodo che ha un grande, cioè un livello importante di grado in uscita, è una persona molto aperta alla socialità con gli altri, una persona che facilmente instaura un rapporto di confidenza, è una persona che può essere un alleato all'interno del servizio, perché è molto portata a concedere fiducia verso l'altro. Guardate che ci sono delle enormi differenze rispetto a queste caratteristiche, sicuramente ciascuno di voi ci avrà degli esempi in testa, ma si trovano, ci sono delle grandi differenze. E il grado in entrata invece, chi ha un grado in entrata chi è? Non è detto che sia una persona molto aperta alla socialità nei confronti degli altri, può essere un broker, ma è una persona capace di attirare definizioni positive da parte dell'altro, sì, oppure in questo caso vedete, questo è il legame di simpatia, è l'esempio che provate, è una persona che sta simpatica a tutti, cioè diciamo favorisce una rappresentazione positiva da parte degli altri, ma questo non vuol dire che egli stesso sia capace a riconoscerne presso gli altri, d'accordo? Potrebbe essere una specie di leader, no. Potrebbe essere, certo, potrebbe essere un leader espressivo o strumentale, sì, in base al legame che stiamo studiando. Potrebbe essere, ma assolutamente essere, è un potrebbe leader. Potrebbe essere che gli altri lo riconoscono come leader, ma lui non si riconosce. E il fatto che lo riconoscono gli altri per noi è sufficiente, esatto, dal punto di vista strutturale. Esatto. Però in realtà, non si abbassa, scusa, diciamo, a dire agli altri, fanno segnare. Vabbè, ho capito che lei è antipatico. Davide è antipatico, l'abbiamo capito. Io mi chiamo Davide. A lei si chiama Davide. Va bene, allora ecco perché ha detto non si abbassa, ci ha visto se stesso. No, no. Va bene. Il problema di allora, va bene, allora, al di là di questo, no? Quindi giustamente può essere un leader, come diceva la vostra collega, e naturalmente se noi calcoliamo la media di queste, della distribuzione di questi gradi, trovato il soggetto che ha il grado in entrata maggiore e il grado in uscita maggiore, e tendenzialmente potrebbero non essere la stessa persona, possiamo calcolare la media, e però le medie saranno... la media dei legami di entrata sarà uguale alla media dei legami di uscita, cioè se noi sommiamo, perché i legami sono sempre quelli che li si considera in entrata e in uscita, sono sempre quelli, ma questa, diciamo, questo approfondimento che trovate nel manuale è fatto proprio apposta, appositamente per suscitare questo dubbio. Dici, ma allora a che cosa serve la media? Se noi calcoliamo la media non serve a nulla, perché i quattro legami che Davide ci presenta in entrata, gli altri li presenteranno in uscita, quindi se io li sommo tutti e li divido per il numero dei nodi, otterrò sempre la stessa media, che in questo caso è 1,475. È una specie di equilibrio che deve uscire a... È perché sono la stessa cosa, l'entrata e l'uscita, che io li vedo in entrata o li vedo in uscita, sono sempre gli stessi legami. E invece che cosa è importante? È importante la varianza, perché la varianza ci dà l'idea di come si distribuisce attorno alla media una distribuzione. Voi sapete che cos'è la varianza? Il range è un concetto, facciamo un esempio per capirla proprio, no? Mi sono permesso di volgarizzarne la presentazione, questa è la formula, ok? Guardate con l'esempio, abbiamo tre persone, Paola, Sara e Giulio, che nel 2012 hanno guadagnato 500 euro, d'accordo? Nel secondo caso hanno invece guadagnato 1.400 euro. Se noi calcoliamo la media, cioè sommiamo le tre grandezze e le dividiamo per tre, otterremo sempre la stessa quantità di... Però ci sono... per voi sono uguali quelle situazioni. Vi pare che siano due situazioni diverse da queste persone nel passato dal 2012 al 2013? Nel 2012. Sono... la situazione complessiva di questi tre è cambiata nel passaggio dal 2012 al 2013, è rimasto uguale. È cambiata, però se guardiamo le medie resta uguale. Si calcola la varianza è la somma dei quadrati delle differenze tra i valori dei singoli casi, in quel caso il reddito, 500 euro, 1000 euro, eccetera, e la media, non siete costretti a scriverlo, siccome trovate la formula nel testo io mi sono permesso di aggiungerla così. Ma c'è un video esatto. Per evitare, come no, non vi do dei dati. E poi il libero. Per capire come si distribuisce una distribuzione, qual è la distribuzione, con come è spalmata attorno alla media della distribuzione, bisogna sommare le differenze tra i valori dei singoli e la media che quei valori hanno consentito di ottenere. Perché data una media, nel caso che abbiamo visto prima 500 euro, questi valori potrebbero stare tutti sulla media, quindi varianza zero, oppure essere, arrivare a 500, ma essere lontanissimi dalla media. Quando dico soltanto una cosa, avete mai sentito, avete mai visto i dati sulla povertà? Sì, voglio dire che la povertà assoluta, la distribuzione della ricchezza di un gruppo di persone. La povertà assoluta e la povertà relativa. Prendete la povertà assoluta. La povertà assoluta, l'incidenza della povertà assoluta è la percentuale di popolazione sotto la soglia della povertà. Ma l'intensità della povertà è quanto questa popolazione è lontana rispetto alla soglia. D'accordo? Allora, modificata la situazione, bisogna prendere i valori, togliere la media e perché si fa al quadrato? Perché se voi sottraete a ogni valore la media e sommate le differenze, ottenete alla fine zero. D'accordo? Per ovviare a questo problema, dovendo però risolvere il problema teorico di capire come si distribuisce rispetto alla media, qual è la distanza, la prossimità della distribuzione, si eleva al quadrato e si sommano i quadrati di queste differenze, dividendoli poi per il numero complessivo dei casi. Perciò, tornando a quello che trovate nel testo, se la qualità di media, qui trovate una varianza per il grado di entrata che è doppia circa rispetto alla varianza per il grado di uscita, che cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto al grado di entrata ci sono uno o pochi soggetti che sono molto più scelti rispetto agli altri. C'è una grossa sperequazione per il grado di entrata, sperequazione che invece non c'è per il grado di uscita. Quindi questa informazione è molto importante, perché ci dice che qua dentro c'è un leader e non c'è un soggetto particolarmente speciale rispetto alla propensione verso gli altri, se no avremmo trovato una varianza elevata per il grado di uscita che non troviamo, la troviamo invece per il grado di entrata, vuol dire che c'è uno molto più centrale rispetto agli altri. Se calcoliamo le medie è chiaro che otterremo sempre la stessa grandezza, ma se calcoliamo le varianze questa grandezza, queste differenze si vedono, per questo la varianza è importante. Mi dispiace che sia capitata in minuti. Però lì lo vedi dal numero se non ce l'hai e ti trovi quei dati lì. Se ne ha 70, se ne ha 70 di soggetti o 50. Ecco, per arrivare alla variante devo sempre fare una sommatoria e quindi vuol dire che dati li ho. Certo, se ti presentano solo la variante, cioè se ti presentano solo quella tabellina lì senza il grafico. Sì, ma voglio dire. Se lei vuole dare un dato sintetico. Rispetto alla varianza, vuol dire che lì dentro c'è. È chiaro che deve avere i dati, se non hai i dati non può calcolare né i valori singoli né i valori né i valori di varianza di media. No, ma io la leggo dall'altro punto di vista. Se io le presento sulla la varianza, uno capisce che con quei due numeri c'è un leader maggiore, diciamo, in legame di entrata che non è in uscita. Però dall'altro punto di vista, per arrivare alla varianza, devo avere i dati, quindi lo so già e lo so già chi è il leader. Beh sì, o no? Diciamo che lo so già, però la varianza le consente di stabilire se c'è soltanto, se lei per esempio ne ha tre di noti che hanno quattro, quindi qualcuno che sia un contesto più complesso, con 20 soggetti, 25 eccetera, ne ha tre o quattro che arrivano a 6, due che arrivano a 5 eccetera, come quantità di legami d'entrata. E ha un certo tipo di varianza. Dopo un po' di tempo cambia la situazione, per cui qualche soggetto sale, qualcun altro di questi scende e cambia un po' la distribuzione. L'unico modo che lei ha per confrontare lo stato iniziale con lo stato successivo è guardare le varianze, cioè le serve un valore sintetico. È chiaro che dopo lei, se io le chiedo chi è il soggetto più centrale, poi mi dirà il Davide. D'accordo? Su questo non ci piove. Però se fra 6 mesi questa situazione è cambiata e complessivamente la varianza rimane uguale, lei mi dirà magari è cambiato il soggetto, ma abbiamo sempre la stessa tendenza da parte del gruppo a identificare un nodo più centrale. Però direi che soprattutto è importante fare il confronto, perché per esempio, e poi veramente vi disse questo, a livello di grado di entrata, di grado di uscita, abbiamo comunque un soggetto che ha una maggiore tendenza, anche se non arriva a 4 ed è Piero e ha 3 legami di uscita. Ciò non di meno però, complessivamente, la varianza che qua registriamo è circa la metà rispetto all'altra. Diciamo che non può dare un valore sui singoli, ma dà un valore sintetico sull'uno e sull'altro indicatore che possono essere delle probabilità, perché ho capito, però se facciamo appunto così degli esempi anche utile per me, perché mi posso dire anche.